GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In arrivo ai comuni i moduli per chiedere il risarcimento dei danni causati dagli eventi atmosferici di luglio. Serviranno anche a raccogliere informazioni precise da sottoporre al governo per ottenere finanziamenti statali. I sonzo in piena, fuori stagione, in genere accadeva in autunno e in inverno, ma è successo prima in agosto. I livelli di guardia sono comunque lontani, ma ci si interroga su come far fronte ad emergenze che non sono più eccezionali. Un osservatorio delle costruzioni per monitorare imprese, contratti e rispetto delle regole sulla sicurezza nei cantieri edili. Lo hanno chiesto i sindacati dinanzi all'aumento degli infortuni sul lavoro. Una raccolta di firme per chiedere il ripristino della piscina del bagno Ausonia a Trieste, chiusa dalla mareggiata dell'agosto 2019. Nonostante la struttura sia ora tutelata dalla sovrintendenza, non vi è ancora alcuna certezza sui lavori. Jonathan Milan e Manlio Moro, friulani d'argento, la squadra italiana dell'inseguimento si è piazzata al secondo posto nella finale dei mondiali di Glasgow. Stamattina tornano in pista per le qualificazioni dell'inseguimento individuale. Viaggio nel tempo a bordo di un treno storico, un elegante convoglio ferroviario d'epoca ieri ha portato i suoi viaggiatori da Trieste a Gemona, immersa in un'ambientazione medievale. Mezz'ora fa il treno con le carrozze degli anni 30 è partito da Sacile per Cornino e l'altopiano del Prat. È domenica 6 agosto 2023, sono le 8:33 minuti 20 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Livia Liberatore e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo. Il cielo è coperto sulla regione con piogge diffuse. Le temperature registrate alle 7. A Trieste 18 gradi, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 25 gradi. A Pordenone 17,5. A Udine 16,5, a Gorizia 16, a Tolmezzo 13,5, a Tarvisio 12, Forni di Sopra 10, Piancavallo 10,5, Sappada 9,5, sul Monte Zoncolan 9, sul Monte Lussari 7,5, a Grado 19, a Lignano 18,5 e la temperatura del mare è di 22 gradi. Vediamo le previsioni dell'ARPA regionale. Tempo variabile al mattino, nuvoloso dalle ore centrali, quando saranno probabili rovesci o temporali sparsi. Temperature sotto la norma del periodo, zero termico in calo sotto i 3.000 metri. Si è messa in moto la macchina burocratica che gestirà il risarcimento dei numerosi danni provocati da trombe d'aria e grandinate da metà luglio alle ultime settimane. La regione ha già stanziato fondi per 58 milioni, mentre ancora non si sa se il governo procederà o meno con la dichiarazione dello stato d'emergenza. Un modulo per i privati, uno per le imprese e uno per i veicoli. Sono quelli messi a punto dalla Regione nell'ultima delibera per dichiarare i danni causati dal maltempo nei giorni scorsi. Serviranno anche a raccogliere informazioni e avere un dato il più preciso possibile da sottoporre al Governo per ottenere eventuali finanziamenti statali. A chi ha subito un danno da maltempo viene dato allora un mese per valutare i danni subiti e ottenere le documentazioni necessarie dai periti. Nel novero, spiega l'assessore alla Protezione Civile Riccardi, saranno da considerare tutti i danni, anche quelli della prima ondata del 12 luglio. Con questi moduli, gli unici ammessi per i danni da maltempo, si dà così uniformità al comportamento dei comuni, eliminando ogni possibile confusione. Alcuni di questi avevano già iniziato, sulla base delle dichiarazioni dei cittadini, a fare una prima stima dei danni da concludere il 7 agosto, operazione che serve soltanto per ottenere un dato aggregato del totale dei danni da presentare al governo per l'avvio dell'iter dell'emergenza nazionale. Ai fini del ristoro non si tratta però di un impegno vincolante. I cittadini che non avranno dichiarato il danno entro questa data potranno comunque presentare domanda per i risarcimenti. Pordenone, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. In autostrada quella di oggi è prevista come una domenica da bollino rosso. Si calcola che potrebbero essere 170.000 i transiti. Rallentamenti e code potrebbero verificarsi in direzione di Trieste al mattino all'altezza dei caselli balneari, cioè San Donà di Piave verso Jesolo e Bibione e la Tisana verso Lignano Sabbia d'Oro. Traffico intenso e possibili code sono attese per l'intera giornata davanti alla barriera autostradale dell'Isert. Per il rientro dei turisti mattinata, possibili incolonnamenti in ingresso al casello di La Tisana e anche all'Isert. Gli abitanti di Jalmicco, frazione di Palmanova, scenderanno in piazza stamattina contro la possibile realizzazione di un hotspot per i migranti nell'ex caserma Lago, un'ipotesi che non è stata confermata ufficialmente. Organizzata dal comune, l'iniziativa trova il consenso di maggioranza e opposizione, entrambe contrarie all'hotspot, seppur con motivazioni diverse. A ribadire il suo secco no, il sindaco Giuseppe Tellini, che si dichiara disponibile però a parlare di accoglienza diffusa. I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Unione alle 11. Negli ultimi due giorni il fiume Sonso ha raggiunto picchi di flusso molto consistenti ed inconsueti per questa fase stagionale, che tuttavia ancora non preoccupano perché al di sotto dei livelli di guardia, sollevano però degli interrogativi sulla gestione dei fenomeni estremi che appaiono sempre più frequenti. Isonzo molto vicino ai record di portata per il mese di agosto, ma a stupire non è soltanto il flusso impetuoso fuori stagione, è anche e soprattutto il raffronto con l'estate scorsa in cui la siccità aveva ridotto il fiume ai minimi termini. Inevitabile quindi l'interrogativo sui possibili interventi di mitigazione dei fenomeni estremi. Emiliano Biasutto del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia. Il consorzio di bonifica ha già in atto la progettazione di un sistema di piccoli invasi mobili che andranno a sfruttare vecchie traverse in maniera tale da poter trattenere l'acqua quando c'è e redistribuirla in maniera più costante quando manca. Michele Toffull di Lega Ambiente. È fondamentale dare priorità alla salute del fiume. Un Isonzo in un buono stato di salute è in grado di svolgere dei servizi fondamentali per noi. In particolare la ricarica della falda, che ci consente di avere acqua potabile, e l'autodepurazione delle acque, in particolare di quegli scarichi di depuratori che non funzionano bene a volte. Gradisca di Sonzo, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Un canale di scambio costante di informazioni per combattere le violazioni delle norme sulla sicurezza, lo chiedono i sindacati, allarmati dall'aumento degli incidenti nei cantieri edili. L'istituzione di un osservatorio delle costruzioni è quanto chiedono con un comunicato la Filea CGL, la Filca CISL e la Fineal UIL a tutte le prefetture, in cui tutti i soggetti istituzionali e rappresentativi di categoria definiscono un protocollo a tutela della legalità, della regolarità e della salute e sicurezza sul lavoro, che passi anche attraverso un interscambio di informazioni e dati per colpire ed espellere dal settore qualsivoglia tentativo di infiltrazione o di mancato rispetto delle norme e delle regole presenti nel settore. Bisogna essere capaci, aggiungono i sindacati, di creare un sistema che sappia selezionare chi fa impresa. La patente a punti, propongono, è la più grande garanzia per le imprese perché esprime un'idea in cui l'impresa seria deve essere premiata e quella non seria condannata da un magistrato, anche attraverso l'introduzione dell'aggravante dell'omicidio sul lavoro. La nota dei sindacati arriva dopo la notizia del lavoratore edile 22enne di origine pakistana trovato in gravi condizioni al di fuori del contesto di cantiere. Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Per Trieste il Bagno Ausonia è un pezzo di storia cittadina. Nato negli anni 30, ora è tutelato dalla sovrintendenza, ma non vi è ancora alcuna prospettiva sul restauro della piscina, non più in uso dalla mareggiata dell'agosto 2019. Per questo è partita una petizione popolare. I bagni Savoia-Ausonia di Riva Traiana, Trieste, sono stati recentemente inseriti dal Ministero della Cultura nel patrimonio storico-archeologico della Repubblica, ma ancora non ci sono certezze sui tempi di restauro della piscina olimpica, danneggiata da una mareggiata il 3 agosto del 2019. Per questo i promotori della petizione per salvare la piscina, sostenuta dal Centro Studi Ceres Donne e da Legambiente Trieste, hanno chiesto un'audizione alle istituzioni pubbliche interessate. La risposta, fanno sapere, per il momento è venuta dalla sola autorità portuale, che li incontrerà martedì 8 agosto. All'autorità portuale compete infatti la presentazione alla soprintendenza del progetto di restauro, senza il quale non è possibile inoltrare al Ministero la relativa richiesta di contributo. Chiediamo un impegno preciso sui tempi di inizio e fine lavori, spiegano i promotori della petizione, per far sì che la piscina possa essere restituita ai cittadini per il prossimo anno. Vorremmo contribuire a evitare ulteriori inerzie dopo 4 stagioni estive in cui bagnanti e atleti sono stati privati dell'agibilità dell'impianto. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ciclismo su pista ai mondiali di Glasgow, il quartetto italiano dell'inseguimento a squadre ha conquistato la medaglia d'argento. Del team fanno parte i due friulani Jonathan Milan e Manlio Moro, con loro Filippo Ganna e Francesco Lamon. La squadra azzurra, già campione olimpica in carica, si è dovuta arrendere in finale alla Danimarca, che ha vinto piuttosto nettamente. Medaglia di bronzo alla Nuova Zelanda, che ha sconfitto l'Australia. E fra qualche ora Milan e Moro tornano in pista per le qualificazioni dell'inseguimento individuale. L'inizio è previsto alle 11:20. Il calcio, ieri pomeriggio la Triestina ha affrontato in un test amichevole la Pro Gorizia allo stadio Bearzot di Gorizia. Risultato uno schiacciante 6-1 per gli alabardati. Prevista per martedì la ripresa degli allenamenti al Grezar di Trieste. Prossimo appuntamento amichevole mercoledì alle 20 a Capodistria contro il Koper. Il bilancio a fine ritiro non può che essere positivo, è il commento del mister Attilio Tesser. C'è stato qualche piccolo acciacco muscolare, ma già da martedì conto di avere l'intero gruppo a disposizione. Un elegante treno d'epoca per immergersi in eventi e manifestazioni in giro per la regione. Ieri il primo viaggio, partenza da Trieste, destinazione una gemona immersa nel Medioevo. Un viaggio ai ritmi di quando l'alta velocità, che ora guarda incuriosita dal binario accanto, era solo un sogno. È quello proposto dalla stagione turistica dei treni storici della Fondazione Ferrovie dello Stato, partita con il primo appuntamento sulla tratta Trieste Centrale, Gemona del Friuli, un'esperienza nell'esperienza a bordo delle celebri carrozze 100 porte con i sedili in legno lucido e le tendine al finestrino. Walter Tius, Associazione Museo Ferroviario Trieste Campomarzio. La locomotiva del 1937. E del gruppo 626, di cui ne sono state costruite 448, e sono in pratica le locomotive che hanno fatto la storia della trazione in Italia. Dopo il successo del 2018 e del 2019, seguito dallo stop per la pandemia, i viaggi sui treni storici in Friuli Venezia Giulia sono ripresi con un calendario che andrà avanti fino al 17 dicembre su diverse tratte. E anche stavolta i passeggeri e gli appassionati di tutte le età sono curiosi ed entusiasti. È la prima esperienza, per cui penso che deve essere bello. È interessante, anche perché qua sono treni molto moderni, quindi ci sta anche questo occhio che probabilmente hanno avuto i nostri nonni. Trieste, Daniele Lettic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un altro treno storico con carrozze degli anni 30, il treno Natura, è partito stamattina alle 8 da Sacile e arriverà intorno alle 10:30 alla stazione di Cornino, dopo aver percorso i binari della ferrovia Pedemontana. Da lì i viaggiatori potranno fruire, attraverso un servizio bus, di visite guidate all'altipiano del Monte Prat, alla riserva naturale e al birrificio Garlatti Costa. Dalle 10:30 al Monte Prat inizierà anche una sfilata degli alpini per celebrare il 60° anniversario di fondazione del gruppo locale delle Penne Nere. Uno spettacolo teatrale musicale ricorda il poeta Federico Tavan nella sua Andreis, nel 10° anniversario della morte. Lo spettacolo, di e con Massimo Somaglino, si intitola Il Capodoglio, rapsodia per Federico, ed è pensato come un omaggio corale al mondo di Tavan, che, segnato dalla sua adolescenza da disturbi psichici, viene rappresentato nella veste di un santo laico moderno. Lo spettacolo si caratterizza per la scrittura musicale, per coro e quartetto strumentale, di alcune delle poesie dedicate al poeta di Andreis dai suoi amici poeti. Sul palco anche tre attrici che racconteranno l'episodio determinante per la biografia del poeta: l'incontro della madre, morta quando Tavan aveva 16 anni, con la strega Giacomina. Lo spettacolo si terrà alle 21 nel piazzale della chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Andreis. Ultimo appuntamento della rassegna Vette Musicali. Il fisarmonicista statunitense Peter Suave, uno dei maggiori artisti della musica per bandoneon, si esibirà alle 11 di mattina a Malga Pian Mazzega a Piancavallo, su musiche di Bolling, Piazzolla, Guidotti e Bach. Il concerto sarà preceduto da una passeggiata naturalistica con letture itineranti dello scrittore e drammaturgo Paolo Patui lungo il sentiero del Tornidor, che partirà alle 9 dal Palaghiaccio. Rassegna stampa, la prima pagina del Piccolo di Trieste. Foto nella parte alta, automobili parcheggiate nel Porto Vecchio. Il titolo, in Porto Vecchio, le automobili dei croceristi. Se ne parla all'interno, andiamo subito a vedere di che si tratta con l'articolo di Massimo Greco. Il comune ha concesso alla Trieste Terminal Passeggeri 120 posti auto nell'ex area Green Sesam. E torniamo in prima per vedere l'altro titolo sul quale punta oggi il giornale, la rivolta dei dilettanti sulla protesta che le oltre 60 società di calcio di tutta la regione stanno per mettere in atto contro le nuove regole decise dal governo sui contratti al personale e sulle spese di gestione. È il tema delle due pagine di primo piano, anche con interviste a diversi presidenti di società calcistiche dilettantistiche. Una pagina è dedicata all'inondazione che ha colpito la Slovenia. Slovenia in ginocchio, solidarietà dall'Unione Europea. Nel paginone culturale la sorprendente scoperta negli archivi dell'IRCI, l'Istituto Regionale per la Cultura Istriana, di tre inediti per il teatro di Antonio Quarantotti Gambini. L'articolo è di Federica Gregori. Andiamo a Udine, il Messaggero Veneto apre con l'economia, meno crediti alle imprese a Udine calano fino al 10%. Nella fotonotizia la medaglia d'argento per i friulani Milan e Moro ai mondiali su pista. Il capocronaca delle pagine locali è dedicato a Friuli Doc, al via dal 7 settembre. Degustazioni, musica ed eventi si punta sulla qualità. Un altro articolo a tema economico nelle prime pagine, sempre più stranieri nelle imprese artigiane, in Friuli sono già il 20%. Leggiamo poi un'intervista a Jean Brun, sindaco di una cittadina francese, originario di Verzegnis per parte di madre, che torna in carne e ricorda l'aggressione subita durante i disordini delle banlieue. È stata dura. Il Gazzettino di Udine apre invece sul caso del possibile nuovo hotspot per migranti a Jalmicco. L'hub potrebbe essere pronto in 2 mesi, calcola il quotidiano. Il dossier era finito anche sul tavolo del ministro Piantedosi. Poi un dato da Udine: raddoppiano le multe nel capoluogo e un calcolo sui rincari della benzina. In regione il prezzo è tra i più alti d'Italia. Edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo, foto grande nella parte alta della prima pagina per il titolo La rinascita di Via Rastello e l'apertura delle pagine interne sul capoluogo. La rinascita di Via Rastello per il 2025, presentato il progetto da 1.400.000 euro. Confcommercio prende la regia delle operazioni e punta ai fondi PNRR per far rinascere i negozi. Aprirà un infopoint e si punterà sulle panchine narranti e sulla multimedialità, spiega il titolo del pezzo di Francesco Fain. Restiamo a Gorizia, cambiamo strada, andiamo in via Manzoni dove nascerà un parcheggio multipiano. Le ditte che lo realizzeranno arrivano da Padova e da Pescara, previsti 252 posti auto, di cui 104 scoperti. Mobilità sostenibile e cicloturismo in apertura della foliazione su Monfalcone. Si parla della pista ciclo pedonale da 1,5 milioni, i binari del cantiere ora uniranno la città, i lavori al via in settembre. Il Gazzettino di Pordenone lancia nelle prime pagine un allarme sulle case di riposo. Il personale è stremato in alcune strutture della regione, ha allungato l'orario di lavoro a 12 ore al giorno. Impossibile in queste condizioni seguire gli anziani. Si parla anche del verde pubblico pordenonese, strage di alberi, ecco perché cadono, spiega un professore universitario che sottolinea la forte presenza di specie esotiche. Una pagina è dedicata alla dispersione scolastica, ora arriva un freno, la regione investe nella formazione. Sul Messaggero Veneto di Pordenone l'apertura delle pagine locali è sul Pordenone Calcio. Lovisa rompe il silenzio, presenteremo l'iscrizione alla D. Poi ricordati i consigli della Polizia di Stato contro i furti in casa e ancora un articolo aggiorna sulla questione dei tigli dell'ex fiera. PD e Civica chiedono l'esame per datarli. Il 10 ci sarà una conferenza. Infine un anticipo da Pordenone Legge. Nel festival sarà presentata la prima guida per pediatri di famiglia che educa al digitale. Concerto mattutino dell'ensemble formato dai gemelli Adriano e Caterina Sangineto, figli del liutaio Michele Sangineto, nell'ambito della rassegna itinerante Palchi nei Parchi, ideata dal Servizio Foreste e Corpo Forestale della Regione. Il duo si esibirà alle 11 al castello di Sakudic a Forni di Sopra, su ritmi che spaziano dalla musica classica a quella folk. La Gipsoteca Piterra, la Palazzina Ferro di Aviano, apre le porte al pubblico con visite guidate gratuite dalle 10 alle 12.30. La collezione raccoglie 61 opere dello scultore avianese Riccardo Piterra, ritratti e figure intere, con una sezione dedicata alla vita dell'artista e al rapporto con la pietra degli abitanti della pedemontana avianese, terra di cave e scalpellini. Un concerto e visite guidate a Gorizia per l'iniziativa Musei Aperti, musica e prodotti del territorio. A Borgo Castello alle 18.30 si esibirà il Quintetto Paul, clarinetto, violino, viola e violoncello, su un programma da Mozart al compositore tedesco Hindemith. Mentre alle 17 è in programma una visita guidata al Museo della Moda e delle Arti Applicate. Uno sguardo ai programmi della nostra sede. Alla radio alle 9.15 la prima puntata di Il Mago della Luce, a colloquio con Arturo Malignani, di Elena Commessatti, per la regia di Stefania De Maria. In televisione, sempre alle 9.15 su Rai 3, i filmati Cavana Stories e Arlecchini del Mare, il magico mondo dei nudi branchi. Il primo è un documentario sullo storico quartiere di Trieste, presentato al Trieste Film Festival del 2020. Il secondo è un documentario naturalistico che racconta la vita e l'aspetto dei coloratissimi molluschi del Mar Mediterraneo. E mancano 10 secondi alle 8:53. L'assistenza tecnica è stata garantita da Giampaolo Zucchi, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Per il momento dunque è tutto, l'informazione regionale della RAI torna alla radio col GR ora oggi in onda alle 12:15 e poi col telegiornale delle 14 su Rai 3. Grazie della cortese attenzione. Da Livia Liberatore e da Antonio Cagliazza, buona domenica e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.